segnali che l'Olanda avrebbe fatto tanta strada erano forti e inequivocabili, ma devo dirti anche da prima del Mondiale, perché comunque la squadra di Van Marwijk ha avuto un girone di qualificazione e tutto un approccio a questa edizione del Mondiale davvero entusiasmante, ed è una squadra che non perde una partita dal settembre del 2008, e quindi non è certamente una sorpresa. L'Olanda ci ha abituati spesso ad arrivare con favori del pronostico e poi magari non fare quello che si pensava. Basti anche riflettere sul fatto che nel 2002 questa squadra nemmeno era riuscita a qualificarsi, sì. E che nel 2006 comunque aveva pagato forse quello che ha pagato l'Argentina in questo mondiale, cioè una squadra guidata da un tecnico che non aveva grande esperienza a livello appunto di guida tecnica di una squadra, ma aveva uno straordinario passato da calciatore, sto parlando di Marco van Basten. Come no? Ed è bastato forse a mettere un allenatore normale che abbia portato i migliori che ci sono in giro e li abbia semplicemente messi in campo. Io trovo che tatticamente l'Olanda, anche se non può essere neanche lontanamente paragonabile all'arancia meccanica di Rinus Michels, abbia proposto un tipo di calcio che è un tipo di calcio molto moderno, che è un tipo di calcio nel quale non esiste più un centravanti puro, che è un tipo di calcio che esalta molto le doti dei singoli, e anche se è una squadra normalissima dal numero 1 al numero 6/7, dal numero 7, dal numero 6 e mezzo in su, è una squadra che ha dei valori singoli fantastici. Basta semplicemente dargli un minimo di consegna tattica e quindi spiegare a Robben dove deve stare, dire a Snyder di fare quello che vuole, sapere inserire anche un giocatore come Van der Vaart nel secondo tempo senza che vada a squilibrare tutta la squadra, senza un punto di riferimento centrale. Ecco, io trovo che l'Olanda per certi versi a volte assomiglia alla miglior Roma di Spalletti quando tutto funziona bene dal centrocampo in su.